accettai. Era quello il mio destino, ma un giorno m'ho incontrata, ho sognato d'andarmene con voi. Rouge. son Jack, son lo sceriffo a caccia del tuo Johnson d'inferno. Non seguito la traccia, deve esser qui dov'è. Avete seccato con questo vostro Ramirez? Per Dio ne son certo, non può esser fuggito, non può esser che qua. E cercatelo dunque, rovistate, dove vi pare, e poi di notte viene. Come on! accetto, sì, avrò, avrò. Perdere come un signore, ma per Dio son tutto nella sede di te, orso il distrutto, ma sei vinto, t'avrò. Aspettate un momento. Che aspetti? Cerco pronto, taglia, a te. Due mani sopra tre. Quante? Due. E a che tu la adori. Siamo pari, evviva! Ora è la decisiva! Sì. Taglia! Che t'avrò fra le mie braccia. Te ne vedi, ti vinto! Presto già, per pietà, ho che cosa fa? Che devo darvi? No! Andiamo a Dio, vedo, ma gli chiedi da me! Presto già, io chiedo per pietà!

racconta, racconta! Johnson, come va? Scusate se l'abbiamo disturbato. Pure che facciate presto. Quanto a questo, bastano sbrigarci pochi minuti. È quello che desidero. E che desideran tutti, vero? Palazzo, come stai? Come stai? Hai sacrificato tutto il paese. Ho condannato, rubato e ucciso. No! La squadra di Monterrey, bandito, fu massacrata dalle facce gialle di quelle tue canaglie messicane. Pugna l'astia alle spalle, il povero Tony. No! Non è vero! Sì! Non mi dice la parte, ucciso un postiglione. No! Assassino, vai! Alla polca, quella notte venisti per rubare. Con gli occhi sorriso di vigna riservati. E lei ci ha rubato. Ladro, ladro! Ho fatto le ragazze. Risparmiate lo scherno della morte, non mi metto pensiero, e ben voi tutti lo sapete, visto siete un braccio mi scossa di mia mano. D'altro voglio parlarvi, per la palla ancora.

今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。